Sì, ciao a tutte e a tutti i compagni e le compagne che ci ascoltano. Allora, questa sera prendiamo spunto, tra le altre cose, da due contributi radiofonici di Radio Blackout. Allora, uno, un contributo sulle tecnologie di identificazione biometrica, sullo stato biometrico in particolare, e poi un altro invece sulle zone rosse. Ma iniziamo dal primo argomento. Manderemo su questo primo argomento un pezzetto di audio, insomma, da questa trasmissione Happy Hour, dove le compagne e compagni che gestiscono appunto questo spazio radiofonico hanno fatto questa intervista, questo dialogo, insomma, più che un'intervista, è una conversazione con Armando Cutolo, che è un antropologo dell'Università di Siena, che ha studiato in particolare in Africa, in Costa d'Avorio, proprio la tendenza, diciamo, sta studiando ancora, perché appunto non è terminato questo suo lavoro, la tendenza alla biometrizzazione dell'identità e il passaggio da identità civile a identità legale, appunto, della popolazione. E allora, prima di mandare appunto questo piccolo audio, volevo dire due parole. Questa conversazione è molto articolata, molto approfondita, insomma, la potete trovare appunto sul sito di Radio Blackout. E le cose che ci hanno colpito, insomma, che vi riporto così brevemente. Armando Cutolo appunto evidenzia questa tendenza rispetto, relativamente alle società occidentali, quindi alla società anche dove viviamo noi, questa tendenza a diventare, da parte della popolazione in generale, a diventare disponibile al controllo passivo, cioè a farsi identificare in maniera passiva. Questo perché appunto i dispositivi di controllo sono entrati nell'uso comune, no? Sono diventati oggetti di consumo, e si va dai tablet agli smartphone, ma anche altre robe, insomma, mi viene in mente i metodi barbari di pagare anche alla cassa dei supermercati. Sì, insomma, in maniera, appunto, con questi dispositivi che sono sempre più tendono sempre più alla biometrizzazione. Ma Cutolo ci dice, però, sì, non è solo questione di questi oggetti, diciamo, di uso comune. C'è anche il fatto che, ad esempio, si è passati dalla carta d'identità cartacea, no, che c'era fino a poco tempo fa, alla carta d'identità con l'impronta digitale, e l'impronta digitale viene presa chiaramente con un sistema tecnologico. Non è più la classica impronta digitale, insomma, con l'inchiostro, ma anzi, la impronta digitale presa con metodi tecnologici è ancora più schiacciante, ti inchioda ancora di più, diciamo, alla tua inconfutabile verità corporea, perché ognuno ha un'impronta digitale diversa, e diciamo che l'unicità della soggettivazione che è inscritta nel nostro corpo è la nostra grande potenzialità, cioè il fatto che ogni soggetto è diverso da ogni altro soggetto. Ma attraverso l'applicazione di queste tecnologie di controllo diventa il cappio, no? Cioè questa verità inconfutabile inscritta nel corpo diventa il cappio, nel senso che è più difficile sfuggire appunto alla identificazione dello Stato, ma anche alla contemporanea desoggettivazione, appunto, che lo Stato attua, diciamo, nel momento in cui ti identifica, ti inchioda alla tua identità per controllarti e per reprimerti al bisogno, e per appunto regolamentare, diciamo, il tuo peso sociale, il tuo ruolo sociale, insomma, all'interno delle città, eccetera. E appunto, l'antropologo Armando Cutolo ci mette in allarme su questo discorso di di abituar di questa tendenza ad abituarsi a venire controllati passivamente. E lui dice: non c'è tanto bisogno di parlare, no? Quindi di contrattare, di negoziare anche, cioè il famoso non ti do i documenti, ti do le mie generalità, ma lasciarsi, la tendenza a lasciarsi identificare così, quasi ponendosi in una posizione astratta, insomma, da quello che sta succedendo, e dice che questo è il primo segnale, cioè il primo, non è il primo, ma è un segnale importante di ciò che sta capitando. Poi in questa conversazione con le compagne e compagni di Happy Hour ci sono tutta una serie di nozioni anche così sulla genealogia dello stato biometrico, su questa intersezione tra imperialismo e colonialismo, infatti sull'applicazione di questi dispositivi soprattutto nei paesi che sono stati soggetti appunto al colonialismo e alla oppressione di questo tipo, e dove queste tecnologie vengono fatte passare quasi per emancipatorie, quasi per garantiste, diciamo, di diritti, E ci parla del ruolo della banca, sì, della banca mondiale in questa roba qua, perché appunto l'identità biometrica diventa una moneta di scambio, cioè in cambio dei dati biometrici la banca mondiale ti dà accesso a un credito misero. Anche appunto nelle politiche cosiddette a vantaggio della povertà, diciamo, dei poveri, e sì, ti danno accesso a un reddito minimo, insomma, a un credito minimo in cambio però di questi dati biometrici, no, che ti incastrano in questa gabbia. E poi c'è il discorso della desocializzazione e depoliticizzazione delle condizioni, ad esempio, di povertà, in quanto la povertà non è più una condizione sociale che dipende appunto da tutta una serie di fattori di disuguaglianze, di oppressione, di sfruttamento, eccetera, di negazione, diciamo, dei diritti di esistenza, ma diventa un parametro inscritto appunto in queste identità biometriche. A questo proposito, appunto, si parla anche di queste tecniche biometriche come di una sorta di tecniche controinsurrezionali in assenza di una vera e propria insurrezione, quindi tecniche, diciamo, controinsurrezionali preventive. Ma forse ho parlato anche troppo, andiamo con la registrazione. La genealogia delle tecniche di identificazione biometrica è una genealogia complessa, però la prima cosa che mi viene da dire rispetto alla tua domanda è che è davvero una genealogia dove si incrocia bene il mondo imperiale, l'esperienza coloniale, e dall'altra parte la genealogia, diciamo così, le tecniche di polizia, il sorgere delle tecniche di polizia contemporanee. È una genealogia che ormai è abbastanza lunga, cioè, diciamo, di solito si fa rimontare fino al 1860 in India, in una provincia del Bengala, dove Sir William Herschel, che era un governatore locale, l'invenzione, la descrizione dell'invenzione parla molto bene della logica dell'identificazione biometrica, come vedremo, questo metodo delle impronte digitali per identificare i nativi che dal punto di vista coloniale, cioè dal punto di vista di Herschel, sono soggetti mendaci per eccellenza, che non possono accedere a quelle forme di negoziazione, di contrattualismo che c'è nello stato civile, cioè dichiarare la propria identità davanti a un ufficiale anagrafico, stabilire contratti, sono per lo più analfabeti, e tra l'altro c'è anche proprio una visione tutta razziale e razzista dei soggetti coloniali indiani come neri, tutti uguali gli uni dagli altri. Si tratta proprio di individualizzare, di fare emergere l'individuo in una folla che diciamo omogenea, e si inventa questa idea dell'impronta digitale, che lui in realtà prende da alcune usanze locali, cioè da alcuni usi locali di ordine commerciale, alcuni contratti in cui i commercianti, i mercanti stampavano le proprie mani o parti delle dita sulla carta, ma senza alcuna sistematicità. Nel caso di Herschel inizia invece a esserci l'idea di una sistematicità delle impronte digitali che potranno essere lette, confrontate e sostanzialmente sostituite alle attestazioni autoproferite di identità dei soggetti. E qui abbiamo un mondo coloniale che procede in una direzione che si incrocia poi molto presto con un'altra genealogia, che è quella appunto delle scienze di polizia, che risale, è molto nota questa storia, ad Alphonse Bertillon, no? Che nel 1876 diciamo propone come funzionario anche di basso rango inizialmente della polizia parigina il metodo delle impronte digitali per reperire chi? I recidivi, cioè i criminali recidivi, che sono un po' l'ossessione della borghesia del tempo, della borghesia ottocentesca parigina, criminali recidivi che, cambiando a quei tempi il nome, spostandosi magari di qualche chilometro, no? Andando in un altro villaggio, un altro paese, un altro quartiere di Parigi, non erano riconosciuti come tale. Il recidivo era una figura che, diciamo, era diventata sostanzialmente l'oggetto anche della stampa locale, di quello che oggi chiameremo un panico morale. Alphonse Bertillon, prendendo delle tecniche che vengono dall'antropologia fisica del periodo, la misura degli arti, misura di alcune proporzioni della testa, la faccia e in particolare le impronte digitali, propone quello che verrà chiamato presto il Bertillonage, cioè un set di misure che definiscono l'individuo. E fa un po' impressione pensare che quello che ai tempi è una invenzione creata per i criminali e per i recidivi in particolare, oggi lo troviamo nelle nostre carte d'identità, perché il Bertillonage, in fondo, la scheda Bertillon, in fondo, era molto simile a una carta d'identità come quelle cartacee che avevamo fino a poco tempo fa, con segni particolari, occhi, colore degli occhi, altezza, la foto. Nel Bertillonage la foto c'era sia di profilo che di fronte, così come poi continuerà a essere nelle foto segnaletiche. E questa tecnologia qui nuova in effetti si mostra efficace come tecnica appunto di controllo, efficace nel reperire le individualità devianti sostanzialmente, non tanto e non solo il criminale da identificare, ma il criminale che ripete, quindi che è sostanzialmente legato a quella che nella antropologia fisica razziale del tempo era un profilo, no? Un profilo di chi è sostanzialmente ed essenzialmente un criminale. Si può pensare anche alla scuola positivista italiana in questo senso, no? All'Ombroso e così via. Quindi non sono pochi gli studiosi di questo settore che pensano all'identità, in realtà all'identificazione biometrica a sud del Sahara, come un dispositivo che ha un altro fine, che diciamo è anche esplicito, però è anche detto ma messo un po' da parte, ma forse è quello più importante, e cioè sostanzialmente la possibilità di identificare cittadini per farli entrare nel sistema del credito, cioè sostanzialmente per fare captare alle banche, da parte delle banche, tutto quel flusso di denaro informale che è un po' l'ossessione governamentale in Africa fin dall'epoca coloniale. La Banca Mondiale è promotrice dei nuovi sistemi di Basic Income Grant, cioè di schemi di distribuzione periodica di risorse monetarie, cioè sostanzialmente di denaro, piccole somme, che si possono ottenere se registrati biometricamente attraverso l'interazione con delle macchine. Spesso sono sorta di bancomat, no? Di macchine di cash machine. La distribuzione di denaro fa sì che ogni cittadino che voglia entrare in uno schema, questo è successo in India, debba avere appunto una carta, una tessera biometrica, sostanzialmente, cioè una tessera elettronica che contiene i suoi dati biometrici. Questa tessera in molti paesi africani è subito diventata, succede in Ghana per esempio, la cosa meglio studiata, una tessera ricaricabile che costituisce il primo piccolo conto in banca. Chiaramente questo significa che certamente c'è una distribuzione verso i cittadini, ma che i cittadini possono finalmente mettere da parte risparmi sui quali il sistema bancario locale subito può capitalizzare. C'è un bell'articolo di Keith Breckland che si chiama Capitalizzare sui poveri, Capitalizing on the Poor, che descrive questo dispositivo in Nigeria, poi l'ha descritto anche in Kenya, l'ha descritto in Ghana, dove è stato recentemente, ma non tanto più neanche recentemente, perché parliamo del primo decennio degli anni 2000, inventato il primo denaro biometrico. Come sempre è nell'ambiente coloniale, in questo caso postcoloniale, che si testano tecniche che poi si potranno espandere in Europa. Denaro biometrico che non è altro che sostanzialmente l'obbligo per i dipendenti dello Stato di avere una carta biometrica e di percepire il proprio salario su questa carta, che è anche una ricaricabile, quindi è anche una carta sulla quale, attraverso degli sportelli appositi, si possono depositare i soldi, depositare carta moneta, mettendo così lo Stato in condizioni, e soprattutto il sistema bancario locale, in condizioni di accumulare denaro cash che altrimenti nell'informale rimane sottratto sia alla tassazione da una parte, ma anche alla capitalizzazione. Guardo basso, braccio appoggiato alle spalle, due tonnare a tagliito, nella testa mille parole di circostanze e conforto. Nella testa mille parole di circostanze e conforto. Alla fine del giorno resto solo davanti a me stesso e concludo realizzando che avrei fatto molto più bella figura lasciando bianche queste pagine. Nella testa mille parole. Come un insulto, un'altra giornata passata ad annullarmi, sono l'ennesima di una mente neutrale. Nella testa mille parole, di circostanza e conforto. Sì, e quindi appunto abbiamo ascoltato insieme insomma questi estratti dalla trasmissione Happy Hour appunto sulle tecnologie di identificazione biometrica, trasmissione mandata in onda su Radio Blackout, e appunto da questi insomma brevi estratti emergeva questo discorso della identificazione biometrica legata all'identificazione dell'altro, no? Del subalterno. appunto Cuto lo diceva, di questa questione dei nativi che per antonomasia sono dei come si dice, dei bugiardi, cioè che non dichiarano il vero, non dichiarano la vera identità, e quindi questa pretesa del potere coloniale, insomma, di stabilire la verità a tutti i costi. E quindi identificazione dell'altro, del subalterno, del deviante, del migrante, del sovversivo, e quindi identificazione del nemico interno. Tra nella categoria di nemico interno rientrano ad esempio oltre ai migranti anche i Rom. E in questa trasmissione si ricorda un dato importante che risale al 2008, quando Maroni era ministro, e Maroni ha attuato una schedatura biometrica dei campi Rom in quell'anno lì, perché in quell'anno lì era stata lanciata un'emergenza, quelle robe così, appunto, quelle emergenze lanciate apposta per criminalizzare una certa categoria di soggetti, ed era stata fatta questa schedatura biometrica degli abitanti dei campi nomadi in tutta Italia, anche a partire dai bambini, quindi. E poi nel 2018 Salvini, quando era ministro dell'interno, ci ha provato anche lui a fare una biometrizzazione relativamente ai migranti, cioè ha proposto di estrapolare dall'anagrafe, diciamo, dai registri dell'anagrafe le identità delle persone migranti per farne un apposito appunto catalogo, insomma, biometrico, appunto questo in quest'ottica qua, no, di cui si diceva nella conversazione appunto su Blackout. Emerge però anche il discorso delle controcondotte, no? Cioè chiaramente diciamo la carta, il permesso di soggiorno, la carta d'identità, finché sono di carta uno le può buttare via, ad esempio mentre è in transito, no? Prima di varcare i confini le può buttare, può farsene altre, se uno è latitante può farsi un'altra carta d'identità nel momento in cui è di carta, no? E, diciamo, c'è più possibilità appunto di sfuggire, però in realtà anche esistono delle possibilità di resistenza anche alla biometrizzazione, e infatti ci deve essere una coincidenza perfetta, diciamo, tra dati biometrici e dati anagrafici, perché tutto il dispositivo funzioni. Ma se i dati anagrafici, diciamo, in partenza non sono quelli reali della persona in questione, la roba salta. Quindi ci sono dei punti deboli, come sempre, insomma, come in tutte le tecnologie, anche se questo è uno strumento avanzato, diciamo, del capitalismo digitale, però ci sono sempre dei punti deboli. Però appunto Cutolo ci dice, fino a che viviamo in un mondo sociale, no? Perché nel momento in cui questa così i legami sociali reali, diciamo, che si vivono all'interno del mondo, nel momento in cui questi legami sociali reali si sfilacciano, c'è un rischio sempre più avanzato. Ma relativamente al discorso delle controcondotte, per concludere un po' questo primo, così, questa prima riflessione, questo primo argomento, io volevo ricordare un fatto di cronaca che riguarda proprio il Friuli, ma non solo Friuli e Veneto, ma e cioè questa cosa che hanno pompato un po' negli giorni scorsi, di questi arresti e perquisizioni, arresti e denunce per delle donne che praticamente donne di nazionalità georgiana presunta, ma che avevano documenti di altri paesi, cioè documenti di paesi dell'Unione Europea. E ci sono stati 19 arresti per questi documenti falsi, 52 perquisizioni e 17 denunce. Allora, anche qui nelle varie media, insomma, allucinanti, si parla addirittura di false badanti georgiane, mentre ovviamente erano persone, donne che fanno le badanti, che avevano falsi documenti, ma non è che sono false badanti, sono persone che fanno quel lavoro lì, ma che hanno documenti di altri paesi, ma perché queste donne hanno documenti di altri paesi? Perché avendo documenti comunitari hanno accesso banalmente ai diritti giuridici, fiscali e sanitari, cioè possono avere una tessera sanitaria, possono iscriversi a un'agenzia per lavorare, perché se invece si presentassero con i loro documenti di persone, di donne extracomunitarie, a causa della legislazione sull'immigrazione non potrebbero lavorare, dovrebbero fare richiesta di permessi umanitari eccetera, che poi non vengono dati e avanti, ma comunque sarebbero nella condizione di non poter lavorare. Quindi difatti anche i giornali più cazzari hanno scritto donne colpevoli di aver acquistato documenti contraffatti per lavorare in Italia, questa è la colpa, cercare di lavorare in Italia. E allora tra l'altro una cosa da segnalare nell'infamia generale dello Stato, che l'attività investigativa è partita dall'Agenzia delle Entrate, perché questa Agenzia delle Entrate dice che vedevano insomma che c'era un notevole afflusso di donne apparentemente georgiane, non si capisce sulla base di che cosa, quali siano i tratti, i motivi di identificazione per cui una persona è apparentemente georgiana. Comunque l'Agenzia delle Entrate parla di notevole afflusso di donne apparentemente georgiane, ma con documenti dalla Slovacchia, Polonia, Lituania, no? Quindi da lì è partito e poi insomma e poi così sono partite le inchieste di polizia. E niente, quindi in conclusione di questo primo così blocco di riflessioni, diamo tutta la nostra solidarietà naturalmente a tutte le persone coinvolte, e quindi alle donne arrestate e alle persone denunciate e a tutte le persone coinvolte insomma in questa operazione, a tutte le donne georgiane. Solo carta, e dopo notte in barca ci accoglie la finanza, sempre che non ci lasciano morire in mezzo all'acqua. Confini immaginari non tengono i migranti, da luoghi derubati, da ladri occidentali che contano i miliardi sui corpi dei cadaveri, e noi sordi bastardi a lamentarci. Impavidi capitalisti squallidi, loro porci comodi ai danni dei miei simili. Permesso di soggiorno, carta d'identità, la carta è solo carta, la carta brucerà. Permesso di soggiorno, carta d'identità, la carta è solo carta, la carta brucerà. Permesso di soggiorno, carta d'identità, la carta è solo carta, la carta brucerà. Permesso di soggiorno, carta d'identità, la carta è solo carta, la carta brucerà. Io sto con i migranti di tutte le parti, mica coi bastardi che contano i miliardi. Forza, fatti avanti, razzista, cazzo guardi, cammina e non girarti, che qui noi siamo in tanti. Non puoi confinarci, non puoi giudicarci, ricorda di pagarci, non puoi solo sfruttarci. Imprenditore infame prima o poi prendere i calci, dai migranti stessi o da noi altri. Fanno i grandi al caldo nelle loro case di migranti, li chiamano Bin Laden, nelle strade li rincorrono, li portano nei CIE, dopo che nei campi han lasciato le energie. Ipocrisia moderna che ti chiude in cella per la tua provenienza. Un esame di coscienza si non farebbe male per questo stato infame criminale. Solidarité avec le sans-papier, solidarité avec le sans-papier, solidarité avec le sans-papier, solidarité avec le sans-papier, avec le sans-papier. Solidarité, nel senso che capisco amico, io sono con te. Qual è progresso? 200 euro per fare il permesso, contro 20 in Belgio, e poi lo stesso, la carta è solo carta e brucerà. Assediamo i CIE in tutte le città, ed ogni volta che un settore brucia una svolta, buttiamo giù sti lager, fomento la rivolta. Permesso di soggiorno, carta d'identità, la carta è solo carta, la carta brucerà. Permesso di soggiorno, carta d'identità, la carta è solo brucerà. Permesso di soggiorno, carta d'identità. La carta è solo carta, la carta brucerà. Permesso di soggiorno, carta d'identità. La carta è solo carta, la carta brucerà. Solidarité avec le sans-papier, hey. Solidarité avec le sans-papier, hey. Solidarité avec le sans-papier, hey. Solidarité avec le sans-papier, hey. Stiamo ascoltando questa band francese, esattamente dell'area di Lione, band che esiste da una decina d'anni. Loro sono i Litige e questo è il loro album datato 2020, En Eux Trouble. Litige. We'll be right back. Sì, allora adesso affrontiamo così, cerchiamo un po', affrontiamo così, accenniamo alla, a un altro argomento, l'argomento delle zone rosse, queste specie di ZTL per gli indesiderati, no? Così sono state definite e vengono anche considerate un preludio alla società dei varchi, tra l'altro appunto per ricollegarsi a ciò che abbiamo detto prima, anche la, sì, la tecnologia biometrica appunto prelude a, a una società dei varchi. E allora le, queste zone rosse intanto sono state, oltre che nel resto d'Italia, anche a Udine ci sono le zone rosse, praticamente possiamo dire che Udine è una intera zona rossa, perché a parte l'estrema periferia è tutta zona rossa e, sì, tutta la, il centro città, insomma i parchi, e si nota dal 16 gennaio è partita sta roba della zona rossa e andrà avanti fino al 10 marzo, appunto, quindi tre mesi circa, una durata non da poco, come nelle altre città in cui è stata inaugurata. E si vedono già i primi fastidi, e, insomma, per chi frequenta la città durante la giornata e nella serata per varie ragioni, si vedono, cioè, un moltiplicarsi, insomma, di mezzi di polizia, di, che fermano persone, che arrivano in bomba e fermano persone così senza un motivo, e, insomma, diciamo che il fastidio aumenta in maniera esponenziale. Allora, su questa, sulle zone rosse, appunto, c'è stata questa trasmissione interessante su Blackout di, la trasmissione è Bello come una prigione che brucia, di, adesso non mi ricordo il giorno esatto, ma comunque di qualche tempo fa, ma la trovate nel podcast, dove il compagno che conduce Bello come ha intervistato questa avvocata della Camera Penale di Milano, che ha fatto una insomma interessante disamina della questione della zona rossa. Non, sì, da un punto di vista giuridico, diciamo, perché essendo un'avvocata non è che ci mette del politico, però queste notizie sono utili, diciamo, per poi buttarla in politica da parte nostra. E allora, intanto viene fuori questo discorso della connotazione emergenziale, no? E appunto viene fuori anche questa, beh, questo discorso delle ordinanze prefettizie. Già le ordinanze prefettizie sono uno strumento eccezionalissimo, diciamo, perché il potere esecutivo non dovrebbe esercitare un potere, diciamo, normativo, legislativo, no? Mentre in questo caso qua si arroga il potere esecutivo anche questa prerogativa. E ci dice appunto, dice questa avvocata, che questo strumento è eccezionalissimo perché è una specie di delega a emettere provvedimenti eccezionali, quasi leggi, perché non sono nemmeno leggi, al potere esecutivo, che appunto ha un potere di normazione assolutamente eccezionale. E tra l'altro già un bel po' di tempo fa, cioè nel 2019, alcuni provvedimenti di questo genere erano stati cassati, ad esempio dal TAR della Toscana, perché dicevano, sì, queste, il TAR, insomma, aveva bocciato, perché diceva non è possibile limitare, cioè la limitazione degli spostamenti, della libertà di spostamento, è una limitazione gravissima che non viene contemplata, diciamo, nell'ordinamento democratico. Però sta di fatto che c'è questa forma, diciamo, di soft law, appunto di normazione soft, che non passa attraverso la, insomma, tutta la, così, i passaggi parlamentari, ma che attribuisce facoltà importanti al potere amministrativo. Quindi cosa significa questo? Agilità dei provvedimenti, che viene applicata. Ci sono anche altri istituti sanzionatori di questo tipo, no? Di tipo amministrativo, come tutti i provvedimenti di prevenzione, diciamo, tipo la sorveglianza speciale, appunto il DASPO, il foglio di via. Tutti questi provvedimenti, anche questi dispositivi qua, sono di tipo diciamo, preventivo, e quindi hanno un grandissimo livello di arbitrarietà, insomma, l'abbiamo visto anche in altri momenti. Però ci dice questa avvocata, in realtà le zone rosse è un passaggio ulteriore in più, perché diciamo che l'esclusione da certe zone della città può avvenire sulla base di concetti estremamente evanescenti, come comportamenti aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto, no? Che è una roba opinabile, insomma, non è misurabile, non si tratta della commissione di reati, ma di atteggiamenti, di comportamenti. Quindi in ballo ci sono i rapporti tra le forze della repressione e la popolazione, e sempre più vengono utilizzati strumenti e misure di prevenzione che anticipano, diciamo, sono interventi anticipatori che vengono prima della violazione delle norme, no? Quindi agiscono appunto a livello preventivo, e quindi agiscono sulla base di una presunta pericolosità sociale, di una presunta messa in crisi della sicurezza pubblica. E quindi siamo nel pieno del diritto penale del nemico. C'è l'identificazione di bacini di popolazione che sono suscettibili e vengono considerati categorie d'urgenza, e appunto, quindi, ad esempio, il proletariato e il sottoproletariato urbano viene colpito, viene considerato una categoria da colpire ad hoc, come anche i giovani immigrati di seconda generazione, che proprio questa dicitura viene proprio utilizzata dal governo, no? Come se ci fosse, quindi viene posto uno stigma su una parte della popolazione, tra l'altro una parte molto eterogenea, cioè che non è omogenea, insomma, non è un blocco, ma appunto è molto variegata. Ma veniamo un po' a quello che può essere la ricaduta per noi, e anche a quelle che possono essere le contromisure. Allora, dunque, loro dicono, cioè il governo dice, i prefetti dicono, una persona con precedenti penali o solo con denunce pregresse non ancora arrivate in giudicato. No, allora, le zone rosse, viene detto praticamente che non si può, si viene allontanati da queste zone rosse se il comportamento è aggressivo, minaccioso, insistentemente molesto. E anche se si è avuto già notifiche, insomma, relative alla propria profilo penale. E allora la domanda è, che viene fatta, ma se una persona ha precedenti penali o solo denunce pregresse non ancora arrivate in giudicato, può varcare i limiti di queste zone rosse tranquillamente, anche prima di aver ricevuto ammonimenti, divieti, eccetera, oppure deve autolimitarsi in previsione di poter ricevere questi ammonimenti, eccetera? E appunto gli avvocati dicono non bisogna assolutamente autolimitarsi, cioè non basta essere denunciati per una certa tipologia di reati, perché vale sempre il discorso della condanna definitiva. E una denuncia in sé non può avere delle connotazioni così limitative sul piano della libertà. Quindi la denuncia non basta. E quindi, appunto, non bisogna assolutamente autolimitarsi. E poi anche alcuni comportamenti della polizia, tipo la polizia che invita i ragazzi in zona stazione ad allontanarsi, sono comportamenti arbitrari, perché la polizia non può allontanare nessuno da nessun posto. E queste cose, però, appunto, tutti questi questi anticorpi, insomma, che è necessario sviluppare per contrastare queste forme di repressione e di grave limitazione della libertà, e anche di grave differenziazione della popolazione, di una parte di popolazione da un'altra parte, dal resto della popolazione, chiaramente sono tutti anticorpi, tutte forme di resistenza che vanno, bisogna un po' allenarsi, diciamo, nel senso che non è che improvvisamente si riesce ad opporre resistenza, cioè bisogna osservare, guardare quello che succede intorno, non limitarsi a fare la propria, cioè andare per la propria strada, ma anche un po' guardarsi attorno, appunto, in modo che non ci sia una risposta solamente individuale, no? Cioè è importante che ci sia una vicinanza e una solidarietà verso le persone eventualmente colpite, insomma, dalle forze dell'ordine. E bisogna anche non avere paura, nel senso che si basano questi provvedimenti, si basano proprio su questa paura indotta, che poi porta magari a meccanismi di distanziamento, di appunto di farsi ognuno i fatti propri, di non guardare, di girarsi dall'altra parte quando a essere preso e maltrattato è qualcun altro, no? E quindi, insomma, anche qui la controrisposta, diciamo, sta in questo, insomma, di aprire gli occhi e di sturarsi le orecchie e di anche intendersi, guardare, insomma, anche le altre persone, non rimanere sul proprio dispositivo, possibilmente, per chi ce l'ha, cioè quasi tutti, ma guardare la realtà, insomma, e stare allerta. Un saluto a tutti voi che ci ascoltate anche da parte mia, e volevo solo aggiungere a quello che è già stato detto, non per essere localistici, una notizia che così va a sommarsi a questo contesto che abbiamo cercato di far vedere, appunto una notizia che viene da qui, da dove si trasmette, noi trasmettiamo da qui, da Radio Onde Furlane, dagli studi via Volturno a Udine. È una notizia sulla mass media ieri quindi mercoledì ubriaco in escandescenza, bloccato con il taser. L'uomo di 50 anni inveiva contro i passanti. Verso le 18, zona di via Poscolle, hanno chiamato una volante e gli agenti sono intervenuti e hanno utilizzato anche il taser per immobilizzarlo, e quindi poi con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale è stato condotto in questura. Non è specificato altro se non che c'erano molti cittadini commercianti a assistere a questa scena. Quindi giusto tenere gli occhi aperti, ma non basta, bisogna avere anche un intento, diciamo, chiaro, insomma, quando si decide di intervenire o si sta per intervenire. Perché poi se la situazione, se il contesto è quello che raccontano questi media qui, così, poi non so io adesso nella realtà, no? Chiaramente se viene a sapere le cose da queste fonti qua non si può avere un'idea, ma in ogni modo posso raccontare anche io una scena a cui ho assistito, se vogliamo, martedì invece, l'altro ieri, non in zona rossa perché era zona periferia della stessa città, guardo lo specchietto retrovisore, avvicinarsi una volante, correre lì zona 30-30, tra l'altro ci sono anche i rallentatori, mi sorpassa, sirene spente, insegue una punto, cioè no, non la insegue, raggiunge una punto che se parcheggia a un certo momento sotto un condominio, arrivano praticamente come dei caccia, questi qua guardano, cioè fanno un specie di carosello, nel senso che li accostano e poi ripartono senza che succeda niente. Io non so cosa può essere passato anche per la, a parte per la loro testa, ma per la testa di delle persone che c'erano dentro l'appunto. Sì, era evidentemente un momento, insomma, di un episodio di intimidazione, quantomeno, insomma, non credo un errore, ecco. Al di là di quello, io volevo anche, prima di passare ad altre questioni, dire che questa domenica 2 febbraio ci sarà un'importante iniziativa a Mestre ad un posto che si chiama Tutti in Piedi. È prevista alle ore 14:30 di domenica 2 febbraio assemblea pubblica di lotta, promossa dal gruppo antifascista contro ogni Green Pass di Venezia, la questione famosa dei manipolazioni genetiche, che non è finita. Parentesi, se volete sapere anche su queste vicende qua del come tira il vento, mettete alla radio, mettete Radio 24, ribaltate tutto quello che dicono e avete chiaro cosa sta succedendo, perché lì sì, ecco, è la cartina al tornasole, nel senso che dove è più chiara la questione. Poi ovvio che anche negli altri media vengono mistificate, no, le cose, ma proprio il canale lì della Confindustria non ha filtri su questa accelerazione qui. Vado a leggervi il volantino di chiamata di questa iniziativa, appunto, che ci sarà al Tutti in Piedi a Mestre domenica 2 febbraio, un'assemblea pubblica di lotta a partire, appunto, a come opporsi alle modificazioni genetiche. La competizione economica globale e la conseguente messa a valore di ogni elemento dell'ecosistema terrestre da parte della mega macchina tecno-industriale sta alimentando le più distruttive guerre a cui l'umanità abbia mai assistito. L'imperialismo sta utilizzando le più avanzate tecnologie in ambiti sempre più diversificati che vanno a alimentare le guerre cosiddette ibride. Ogni nuova scoperta diventa un'arma. I brevetti delle nuove varietà vegetali GM, geneticamente modificate, sono già in commercio e in parte già acquistati dalle grandi multinazionali agroindustriali, nonostante non ci sia ancora l'approvazione dei vari enti preposti e siano definiti pericolosi per l'uomo e per l'ambiente da un numero sempre più alto di medici e scienziati. Si tratta di furti incommensurabili ai danni delle comunità umane che da millenni le hanno selezionate naturalmente, rendendole adatte al loro ambiente di crescita, arricchendo in tal modo la biodiversità a livello locale. Il CRISPR-Cas9, detta anche la forbice molecolare, è la tecnica usata per il sequenziamento genetico dei nuovi OGM, metodo che viene utilizzato con estrema disinvoltura dal 2012. Il kit si può trovare facilmente in internet a poche centinaia di euro. Da allora l'utilizzo di questo innesto genomico viene usato non solo in ambito agrario, bensì in gran parte dei settori delle bioscienze, con scarsissima attenzione agli effetti collaterali. Un esempio fra tutti, l'utilizzo in deroga alle normative sugli OGM da parte dell'OMS su un numero consistente di vaccini anti-Covid-19. Gli utilizzi in campo militare ovviamente sono secretati, ma è noto ormai che nell'ultimo decennio i biolaboratori dual use, come quello di Wuhan, dove vengono ingegnerizzati tramite CRISPR-Cas9 i virus come armi batteriologiche e rispettivi antidoti, stiano aumentando in maniera esponenziale in tutto il mondo. Aperta parentesi, è notizia di questi ultimi giorni, anche ufficiale, che uno studio divulgato dalla CIA, dall'Agenzia dei Servizi Segreti degli Stati Uniti d'America, ha avvalorato, diciamo, questa tesi della fuga del virus del Covid da un laboratorio, da un biolaboratorio. Attualmente in Armenia sono in corso numerose proteste per l'apertura del 13° biolaboratorio. Anche in Georgia, dove negli anni scorsi si erano verificate grosse contaminazioni a danno di umani e animali, la popolazione è sul piede di guerra. In Ucraina, invece, sono state trovate, nonostante la parziale distruzione delle prove da parte del governo, le testimonianze degli esperimenti sulla popolazione di ceppo slavo condotte dal personale di ben 18 biolaboratori statunitensi. Anche in Italia non siamo messi tanto meglio. Stando alle disposizioni del PNRR, ne dovrebbero sorgere almeno uno per regione e andrebbero potenziati quelli esistenti. Esempio, Trieste passerebbe dal livello 3 al livello 4 di sicurezza. La perversa volontà estrattivista, giustificata dall'aumento demografico e dall'asserita mancanza di risorse, sta spingendo una manciata di multinazionali a impossessarsi e privatizzare tramite brevetti ogni ambito del vivente, dal DNA umano ai semi delle piante, agli animali domestici, ai virus, ai batteri, a tutti i microorganismi a loro congeniali, per poi ricombinarli tramite intelligenza artificiale e metterli nel mercato a prezzo da loro stabilito. Il tutto inquadrato nell'ambito di una feroce contrapposizione tra contraenti a livello globale, che non può far altro che sfociare nell'affare più remunerativo di tutti, la guerra. Ripetiamo quindi: assemblea pubblica di lotta 2 febbraio 2025 alle ore 14:30 a Mestre, al Tutti in Piedi in piazza Canova 1. Sì, e anche stasera volevamo così dare voce un po' ai prigionieri e alle prigioniere palestinesi che sono state liberate e liberati appunto nello scambio di prigionieri durante questo precario cessate il fuoco. E, beh, intanto va detto che appunto nonostante i ritardi creati dall'occupazione, le ripetute invasioni delle case delle famiglie dei prigionieri palestinesi di Gerusalemme nel tentativo di impedire loro di festeggiare, il lancio di gas lacrimogeni e spari di proiettili di metallo sulla folla, rivestiti di gomma sulla folla che appunto aspettava il rilascio dei prigionieri a Beit Hunia, nonostante questo c'è stata insomma una festa, il popolo palestinese ha accolto e festeggiato i prigionieri liberati e quindi insomma è stata una cosa molto così, molto sentita, molto vitale. E tra l'altro anche nei video si vedono insomma durante i festeggiamenti che anche ci sono i ragazzi insomma che lanciano pietre contro l'esercito, cioè quindi ogni momento, anche i momenti di festa, ogni momento è buono per continuare la lotta. E in questo contesto qua va detto, io volevo dare un po' voce alla situazione delle donne che sono state detenute nelle prigioni israeliane, e emerge che molte delle donne prigioniere, leggo da un articolo comparso su Invicta Palestina, e molte delle donne prigioniere hanno avuto bisogno di cure mediche immediate e chiari segni di negligenza medica e di abuso erano in netto contrasto con la salute delle tre prigioniere sioniste che erano state rilasciate dalla resistenza all'inizio della giornata, parliamo del 20 gennaio, nonostante le loro condizioni sotto i bombardamenti e l'assedio genocida di Gaza. Allora, ad esempio, Khalida Yarar, la femminista, compagna femminista e del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, di cui abbiamo parlato anche la scorsa puntata, è uscita dalla prigione con i segni dei maltrattamenti subiti, tra cui 5 mesi e una settimana di isolamento, con solo una piccola fessura per respirare l'aria. E questi maltrattamenti subiti sono evidenti sul viso e sul corpo. Mentre Margaret Al-Rai è scesa dall'autobus con una mano rotta, ferita dall'attacco delle guardie carcerarie dell'occupazione. Molti dei prigionieri hanno perso decine di chili durante la loro prigionia a causa della politica di denutrizione attuata dall'occupazione nei loro confronti. E, in ogni caso, le donne prigioniere sono state sottoposte a maltrattamenti il giorno del loro rilascio, come ha raccontato in alcune interviste Latifa Mashasha, prigioniera liberata di Gerusalemme. Dopo essere state trasferite dalla prigione di Damon a quella di Ofer, le donne sono state trascinate per i capelli, gettate a terra mentre i cani abbaiavano contro di loro. Molte donne sono state picchiate poco prima di essere consegnate alle forze sanitarie per lo scambio. Nel frattempo le forze di occupazione hanno imposto il terrore nella casa dei prigionieri, invadendo ripetutamente le loro case, convocando i familiari nel famigerato centro di interrogatori di Moscovie e mettendo in guardia da qualsiasi tipo di festeggiamento per il rilascio dei loro amati prigionieri. Nel frattempo a Beit Hunia le forze di occupazione, nel tentativo di disperdere la folla che aumentava sempre più e in attesa dei prigionieri liberati, hanno ferito 6 persone sparando contro di loro e costringendo le famiglie dei prigionieri ad aspettare fino alle prime ore del mattino. Ma nessuno di questi sforzi ha placato la festa del popolo palestinese che ha accolto con gioia i prigionieri, sventolando le bandiere della resistenza e le bandiere palestinesi e cantando per la resistenza vittoriosa a Gaza. E all'unanimità i prigionieri e le prigioniere hanno espresso il loro amore e la loro solidarietà per la popolazione di Gaza. I nostri sentimenti vanno alla nostra gente di Gaza. La nostra preoccupazione in carcere, nonostante le torture e gli abusi, è stata che la guerra a Gaza cessi. Il nostro messaggio e il nostro ringraziamento a loro. E non dimenticheremo mai ciò che hanno fatto per noi. E inoltre appunto queste prigioniere, questi prigionieri, ricordavamo la scorsa puntata questa tendenza diciamo dello Stato di Israele a non voler liberare i prigionieri politici più carismatici, diciamo, soprattutto se sono ancora in un'età e in cui possono combattere non sono, diciamo, compromessi dal punto di vista della salute troppo. E tra questi questi compagni, appunto, che non ancora detenuti, ci sono Marwan Barghouti, Ahmad Sadat, Abdullah Barghouti, Ibrahim Ahmed, Abbas al-Sayed, Hassan Salamé, e appunto l'occupazione si rifiuta di rilasciarli, e quindi c'è questa campagna, questa settimana di azione per la liberazione di Ahmad Sadat e di tutti i prigionieri palestinesi, che va avanti. E insomma, appunto, le prigioniere e i prigionieri palestinesi liberati ci esortano tutti noi a sostenere la Palestina e a, appunto, a continuare ad impegnarci per affinché tutti i prigionieri siano liberi e tutta la Palestina sia libera dal fiume al mare. E così, con questo, insomma, questa esortazione che ci arriva direttamente dai territori occupati, e proponiamo una, prima abbiamo ascoltato MC Caserio che appunto parlava una canzone, insomma, di una decina di anni fa, che affrontava la questione del permesso di soggiorno e della carta d'identità, appunto, che sono solo carta e che bruceranno. E sempre in quegli anni MC Caserio appunto ha così composto questa canzone su Gaza, con ogni mezzo necessario, che ora ascoltiamo. Israele e Palestina, un'invasione non è guerra, dei governanti che hanno venduto quella terra a inizio Novecento al popolo prescelto, che con questa scusa tira bombe sulla testa del popolo che invece lì ci vive da più tempo. E per dimostrarti che non credo più allo Stato, combatto il carro armato con le pietre disarmato. La bandiera non è simbolo di chi mi ha già fregato, ma di un popolo cacciato da un genocidio umano. Il missile è firmato da un bambino israeliano, spettacolo cadente come stelle sopra Gaza. Madri disperate si rivolgono al Corano, figli morti, bomba in testa, gente senza più una casa. Sotto l'ala dei potenti, questi stanno comodi, invece i palestinesi dentro i campi profughi. Passano i governi infami ma restano i popoli. Informati, ma non dei giornalisti ipocriti. Noi ci difendiamo con ogni mezzo necessario. Questa bandiera non è simbolo di qualche mercenario contro l'occupazione dell'esercito israeliano. Noi ci difendiamo con ogni mezzo necessario. Questa bandiera non è simbolo di qualche mercenario contro l'occupazione dell'esercito israeliano. Questo è l'uomo che ha fallito, ripropone sui suoi simili i mali che ha subito per uno Stato non stato costituito. Questa bandiera non è il simbolo del clan governativo, è il simbolo di un popolo obbligato all'esodo, ad essere torturato ed esiliato, fatto profugo, bombardato e condannato da uno Stato terrorista, supportato dall'elite capitalista. Niente tesi del complotto, ma lo scontro con chi ha visto sterminata la famiglia. Con le pietre si alimenta la guerriglia, perché non c'è pace senza giustizia, dedicato a chi si vizia e non ci pensa, perché questa è un'invasione, non è guerra. Popolo palestinese, l'esercito di Israele, te l'ho già detto, sono bombe contro pietre. E se sapete allora fatelo sapere, e se sapete allora fatelo sapere. Noi ci difendiamo con ogni mezzo necessario. Questa bandiera non è simbolo di qualche mercenario contro l'occupazione dell'esercito israeliano. Noi ci difendiamo con ogni mezzo necessario. Questa bandiera non è simbolo di qualche mercenario contro l'occupazione dell'esercito israeliano. Noi ci difendiamo con ogni mezzo necessario. Questa bandiera non è simbolo di qualche mercenario contro l'occupazione dell'esercito israeliano. Noi ci difendiamo con ogni mezzo necessario. Questa bandiera non è simbolo di qualche mercenario contro l'occupazione dell'esercito israeliano. Bene, i brani che abbiamo ascoltato ora in sottofondo fanno parte di un CD, di un album che era uscito nel 2012 dai Goriziani Warfare, che si intitolava La libertà non ha prezzo. E ora siamo anche al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Furlane da Udine, dalle ore 20 alle ore 21:30, anche oggi 30 gennaio 2025. E prima proprio di salutarci totalmente, vi leggo i nostri contatti, che sono, se volete scriverci con la posta elettronica, scrivete a liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete farlo in forma cartacea scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione è anche quella, quelle delle volte scorse, potete riascoltarle andando su zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, quindi ci risentiamo il prossimo giovedì, vi saluto, e anzi sì, vi salutiamo, e salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Vi lascio con un altro brano dei Warfare, appunto estratti sempre dal loro CD La libertà non ha prezzo. Ciao. Two minutes, two.